Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti, sono le 11.09. Se io adesso vi dicessi siamo tutti fatti per essere felici, voi sinceramente che cosa mi rispondereste? Io vi vedo già, vi potrei scomporre in tanti piccoli sottogruppi, i demoralizzati cronici che commenterebbero il solito slogan acchiappa consensi. Poi i perseguitati dalla sfortuna che mi direbbero: beh, prova tu, cara Nicoletta, a metterti nella mia vita e poi vediamo se sei ancora capace di affermare una cosa del genere. E infine vedo anche gli scettici cronici che istantaneamente commenterebbero: beh, sotto sotto ci deve essere un inganno. Ah, felicità, su quale treno della notte viaggerà? Non so che passerai, ma come sempre in fretta non ti fermi mai. Felicità 800 24 00 24. Oggi faremo insieme un esperimento. Io voglio oggi aiutarvi ad aderire nel qui ed ora alla vostra vita questa frase: siamo tutti fatti per essere felici. Ma andiamo con ordine, o meglio, vi do un ordine: cominciate a scriverla su un foglio, come se fosse un modo per fermare le cose, con proprio il desiderio di rendere concreto e visibile ciò che magari al momento vi sembra addirittura impossibile. Intanto io la frase "siamo tutti fatti per essere felici" non ho bisogno di scriverla, perché la trovo già scritta sulla copertina di un libro appena pubblicato da Sperling e Kufer, il cui autore è qui con me e io sono molto onorata, perché qua in studio con me ho un grandissimo uomo, ho Monsieur Christian Boiron. Buongiorno. Buongiorno. Io, Boiron, so già che la vostra mente comincia a estrarre file della memoria. Beh, questo cognome Boiron io l'ho già sentito, è una parola che mi suona familiare. Sì, avete ragione, non è un Boiron qualsiasi, è il Christian che sta qui davanti a me, perché lo lascio raccontare da lui. Se dovesse Monsieur Boiron raccontare la sua biografia con 5 parole chiave, quali sarebbero queste parole? Poi noi, lei intanto ci pensi, e intanto che Christian Boiron tira fuori appunto queste 5 parole che riescono un po' a descriverlo e forse ci daranno un indizio nel capire perché ha deciso di scrivere oggi proprio un libro sulla felicità, io coinvolgo voi con la mia sfida di oggi. Su di voi limito le richieste e voglio da voi solo 3 parole, ma vi chiedo che se siano le parole chiave che spiegano la vostra personale formula della felicità. Se ci chiamate in diretta potrete raccontare e commentare in diretta la vostra personale formula con il nostro illustre ospite, quindi è un'occasione che non capita sempre. Allora, intanto per cominciare, Monsieur Boiron, lei è pronto? Le ha già scritte? Sì, ho scritto qualche cosa, perché non è facile per riassumere una vita in 5 parole. Trovo l'esercizio interessante. La prima cosa che ho messo era la curiosità. Sì. La curiosità, perché sono sempre curioso e anche, devo dire, entusiasta a proposito dell'umanità. Sì. E di che cos'è l'uomo, che cos'è l'umanità, qual è il senso dell'uomo, e poi la felicità, perché da bambino ero convinto che potevamo fare molto meglio che facciamo, infatti. Sì. E ho sempre lavorato della mia vita a proposito di questa felicità, che cos'è e come possiamo fare meglio. È vero, mi scusi, Monsieur Boiron, che lei a 12 anni si interrogava sugli uomini. Sì. Potrebbero essere più felici? Si faceva a sua volta una domanda: bisogna farsi prete per aiutarli? Sì, ho pensato. Era un bambino curioso, lei. Sono molto curioso. e ho molto voglia di fare, di fare progredire la società e l'umanità. E dunque non sapevo a questo momento le differenze che faccio oggi con più di 50 anni di lavoro anche scientifico a proposito di questi concetti, ma già a questo momento vedevo che lo stress era molto pregnante della società e volevo che prendeviamo consapevolezza di questa realtà. Certo. E dopo ho aggiunto l'azienda, perché sono un uomo di azione e ho sviluppato tutti questi concetti all'interno prima di tutto del mondo dell'azienda. Poi sono uscito da questo mondo per entrare nella medicina, della politica, della filosofia, eccetera, eccetera. Ma l'azienda è sempre stato da più di 40 anni il mio laboratorio di esperienze sociali e psicologiche. Certo, perché è un microcosmo l'azienda che riflette poi la società. 800 24 00 24, un numero verde per le persone che si sentono in questo momento felici, che vogliono parlare di felicità, che vogliono raggiungere la felicità. Che cos'è la felicità, Monsieur Boiron? Allora, la felicità è una cosa che è molto male conosciuta, è molto, deve essere molto di più approfondita, perché veramente è la cosa che cerchiamo tutti più o meno senza saperlo, ma che non definiamo mai. O abbiamo provato di definirla, ma senza riuscire. Adesso la mia proposta è di dire che la felicità è un stato radioso della persona che arriva a esprimersi se stesso in modo abbastanza profondo e che dà un senso alla sua vita. Sì. 800 24 00 24. Questa è una definizione di Monsieur Boiron, ma io nella prefazione, nel libro di Boiron, la prefazione è a cura di Mathieu Ricard, sì. Grandissimo uomo. Pensate che lui era un biologo molecolare, giusto? Esatto. Che ha abbandonato la sua carriera per diventare buddista e anche portavoce del Dalai Lama. Sì. Lei l'ha conosciuto? Sì, attraverso i suoi libri prima, sì. E poi ci siamo incontrati su questo campo della felicità, perché ha scritto un libro sulla felicità, in quello citava il mio libro, e poi progressivamente ci siamo incontrati e ha accettato di prefassare. Sì, fare la prefazione. Fare la prefazione del mio libro. E dunque è molto interessante, perché io non sono buddista, ma arriviamo alle stesse conclusioni con alcuni diversi. Sì. E la cosa che ha puntato, che è molto importante, è che la felicità non è il piacere. È il centro del mio libro, era già il centro delle mie azioni attraverso l'ultimo libro che avevo scritto 15 anni fa, ma oggi ancora di più ho messo in evidenza la differenza tra i piaceri, perché sono due tipi, e la felicità, che è un terzo tipo di piacere, di livello superiore, che appartengono tutte queste gratificazioni a tre livelli del cervello diversi. Certo, ce l'abbiamo apposta fatto a tre livelli per sperimentare tutti questi piaceri e felicità. 800 24 00 24, tra poco daremo voce alle vostre telefonate. Vorrei proprio che questa fosse un'occasione per un dialogo tra voi da casa e Monsieur Boiron. Io così mi metto un attimo, passo indietro, ma intanto per attivarvi abbiamo parlato di Mathieu Ricard, a me piacerebbe moltissimo incontrarlo, e voglio farvi sentire che cosa ha scritto nell'introduzione del libro di Monsieur Boiron. La vera felicità scaturisce dall'interno. Benché possa essere influenzata dalle circostanze, non ne è vittima. Lungi dal trasformarsi nel suo opposto, perdura e si accresce via via che la si sperimenta. Produce una sensazione di pienezza che con il passare del tempo si trasforma in una caratteristica fondamentale del nostro temperamento. Una tale felicità è una condizione esistenziale. uno stato di profondo equilibrio emotivo che è a sua volta il risultato della comprensione approfondita del funzionamento della mente. Mentre i piaceri ordinari si producono tramite il contatto con oggetti gradevoli e terminano col cessare del contatto, la felicità viene sperimentata per tutto il tempo in cui ci manteniamo in armonia con la nostra natura profonda. E do subito il benvenuto a Maria che ci chiama da Udine all'800 24 00 24. Vorrei che proprio i nostri centralini oggi impazzissero di felicità perché già anche parlarne e capire a che cosa tendiamo secondo me è un buon passo. Poi chiederemo a Monsieur Boiron, lei lo fa molto bene nel suo libro, di aiutarci a riconoscere quei condizionamenti cattivi che minacciano la nostra potenziale felicità. Questo è il primo passo, perché se è vero che siamo tutti fatti per essere felici, forse sono proprio questi condizionamenti che come un freno a mano, ma noi non lo sappiamo, a me ogni tanto capita di partire col freno a mano tirato, ma ci impediscono di essere felici. Sentiamo Maria da Udine. Buongiorno Maria. Buongiorno al vostro ospite. Buongiorno. Io ho telefonato di getto. Brava. Perché l'argomento mi sollecitava. Sì. Perché io mi chiedo continuamente che cosa sia la felicità, no? E alla fine sono arrivata alla conclusione che la felicità bisogna saperla riconoscere. Si può riconoscere in ogni attimo, in ogni momento della nostra vita. Non è vero che non esiste la felicità. La felicità appunto è uno stato mentale, tutte quelle storie lì. Però bisogna addestrarsi a riconoscerla, perché deve essere una predisposizione, predisposizione dell'animo. E bisogna proprio addestrarsi e addestrare chi ci sta vicino a individuarla. Quindi è molto facile. Lei come fa? Ecco, ad esempio oggi, Maria, bisogna imparare a riconoscerla. Dove l'ha riconosciuta? Ma io oggi l'ho riconosciuta svegliandomi stamattina accanto a mia figlia, aprendo le finestre, guardando il sole finalmente. È una giornata di vacanza, per cui sono particolarmente predisposta a fare delle cose belle. Quindi Maria, Monsieur Boiron, è vicina al suo pensiero sulla filosofia? Lei parla anche di ginnastica della felicità. Monsieur. Sì, dobbiamo sapere che i pensieri generali a proposito della felicità sono falsi. Perché abbiamo fatto la confusione tra 3-4 mila anni tra i piaceri e la felicità, il piacere fisico, il piacere psichico e la felicità. La cosa di quella fa riferimento anche al piacere. È possibile avere piacere, certo, e non è giusto anche quando è possibile, ma possiamo anche essere felici, e questo è fondamentale, quando siamo moranti nel morire, quando siamo malati, sofferenti, o quando non siamo ricchi, quando non abbiamo bambini, quando siamo in un paese come la Libia o altri paesi, quando c'è la guerra, eccetera. Non ha niente a fare con il piacere. Posso avere tanti piaceri e essere totalmente infelice fino al punto qualche volta di suicidarmi. Sì. E posso essere con condizioni di vita terribile ed essere felicissimo, e si vede tutti i giorni in questi paesi o in questi ospedali. Sono della salute, vado spesso all'ospedale e ci vediamo qui persone che sono felici e altre che sono infelici. Io vorrei, lei nel suo libro cita un film molto bello, Lo scafandro e la farfalla, e parte da una riflessione che riguarda proprio il protagonista Jean-Dominique Bobby. Noi l'abbiamo cercato e ve ne facciamo ascoltare un breve estratto, perché da questo suggerimento, da questo stimolo, parte una seconda considerazione che abbiamo già in parte accennato, e cioè che spesso il primo ostacolo per raggiungere la felicità, la nostra felicità, una felicità che è diversa dal piacere, come ci suggeriva Monsieur Boiron, siamo proprio noi, mannaggia. Andrà tutto bene, signor Bobby, vedrà. Tutto bene, sì. Non si preoccupi. Lui capisce tutto. Lui capisce tutto. E-S-A-N-I-R-C. L'immaginazione e la memoria sono i soli mezzi che ho per evadere dal mio scafandro. Per tornare al libro, si ha stipulato un contratto con noi. Parla, credevo non potesse parlare. Lui sì, parla, si esprime in una certa maniera. Oggi mi sembra che tutta la mia esistenza non sia stata che un susseguirsi di piccoli fallimenti. Mi deve mandare un bacio. Quanto sei bella. Le occasioni che non ho voluto cogliere, gli istanti di felicità che ho lasciato volare via. Ero cieco e sordo, non mi serviva necessariamente la luce di un'infermità per vedere la mia vera natura. Questo sono io. Monsieur Boiron, allora, siamo noi. Il vero problema siamo noi. Il vero problema è piuttosto la vera fonte della felicità. Dobbiamo capire anche che la felicità non è un obiettivo, è un sistema che viene quando ottimizziamo il nostro meccanismo di vita. Il nostro meccanismo di vita è aiutato da queste gratificazioni come il piacere fisico, psichico e la felicità. Il piacere fisico ci rende conto del fatto che facciamo le necessità per sopravvivere fisicamente. Certo. Quando ho fame mi fa piacere di mangiare, quando ho sete mi fa piacere di bere. E il piacere psichico aiutaci e incitaci a vivere in società. Dunque è lo campo di tutti gli istinti gregari che mi portano a vivere con gli altri e bene con gli altri. Ma non devo essere imprigionati da questi istinti gregari, devo essere capace di uscire qualche volta. E poi l'istinto neocorticale, la neocorteccia, la parte la più umana del cervello, ci porta a sviluppare la nostra intelligenza personale, e quando l'utilizziamo e quando viviamo veramente la nostra vita specifica, individuale, risentiamo questa sensazione di felicità che è un modo di ottimismo incondizionale, non dipende dagli altri o delle condizioni o della salute o della sofferenza o di tutte queste cose, ma dipende solo dall'accettazione di sé e dell'espressione di sé. Quando Bobby dello scafandro e la farfalla. E la farfalla, non mi ricordavo il nome italiano, la farfalla. Che cosa fa? Utilizza tutte le sue capacità di espressione anche quando sono infinitesimali. E effettivamente solo con la paupière, con la palpebra sinistra, lui ha potuto esprimere la sua poesia, il suo senso della vita, eccetera. E questo è veramente un esempio che dovremmo ricordarci qualche volta quando mettiamo la nostra felicità nel sole o della famiglia o delle cose che sono interessanti, utili, eventualmente importante, se c'è qualcosa di importante, ma che non sono la felicità, dunque l'espressione veramente di sé. Allora, io vi lancio questa opportunità. Chiamateci 800 24 00 24. Adesso andiamo a sentire i mercati e il meteo, ma chiamateci perché? Perché io vorrei proprio raccogliere tantissime vostre telefonate. Devo dire che state scrivendo dei messaggi magnifici che, se mi autorizzate, vorrei far leggere poi a Monsieur Boiron. Magari viene un terzo libro, La felicità degli ascoltatori di essere benessere. Questo mi rende formidabile. Allora, dato che il nostro ospite Monsieur Boiron ha proprio nel suo libro, parla di ginnastica della felicità, faremo anche una meditazione lampo. Qual è l'occasione migliore per così farsi proprio aiutare? Facciamo un reality, no? Una cosa di felicità in diretta, guidati da Monsieur Boiron. Voilà, mercati, meteo e poi di nuovo insieme. Essere e benessere. Chiamala, risponderò chiamandola per nome. La tua felicità, senza timore, chiamala per nome. Non soffocare ciò che è naturale in te, canta insieme a me. Il piatto della conoscenza sarà sempre te. Lucio Battisti, grande, canta felicità, eh? Ed è proprio ciò che vogliamo fare oggi insieme a noi, a voi. Ma oggi, molti di voi me lo stanno scrivendo, e noi stiamo parlando di una felicità che non ci viene insegnata. Noi, anche quando siamo piccoli, quando, non so, la mamma ci fa un regalo, ci dice, ecco il regalo, sei felice? Ci fa la torta al cioccolato, mangiamo la torta al cioccolato, quanto sei felice. Insomma, la felicità, noi siamo educati, ci hanno proprio cresciuto, forse anche noi lo facciamo con i nostri figli, a legarla molto al piacere. Nel libro di Boiron c'è un salto, c'è altro, perché la felicità è altro, ci sta dicendo, e in Oriente questo concetto, parlavamo prima con Monsieur Boiron, è molto, è già, no? E ce l'hanno quasi sviluppato, sì. Mentre noi dobbiamo fare un pochino più, sì, più di fatica, di sforzo, e pensare come staccarci da questa idea della felicità che è legata al piacere. Poi ci sono persone che sono ricchissime, bellissime, famiglie stupende, strepitose, e eppure sono infelici, e persone che invece hanno veramente delle occasioni, delle... Io quando ho incontrato il mio amico Mario Melazzini, è un medico, gli ascoltatori di Radio 24 di Essere Benessere lo conoscono, ed è malato di sclerosi laterale amiotrofica. Io mi ha aperto il cuore, perché vedere come riesce ad assaporare ogni attimo della vita, lui che non, insomma, è imprigionato da questa malattia, io ho capito che lui sa dove cercare la felicità. E quindi l'idea è che possiamo fare oggi, e ho bisogno naturalmente dell'aiuto di Monsieur Boiron e del vostro aiuto, perché è un lavoro che richiede un po' la collaborazione di tutti, e di provare a cercare la felicità quando noi dal di fuori penseremo che non sia possibile. Monsieur Boiron. Sì, dobbiamo provare di cambiare i condizionamenti della società, non solo i nostri propri, perché sono le basi dell'infelicità personale, ma anche le questioni della società, e per quello che dobbiamo fare una ginnastica, perché la società va all'incontro di queste realtà scientifiche e sperimentali, e quando abbiamo capito il meccanismo ci diciamo che finalmente è evidente, ma per arrivare a questa evidenza dobbiamo lavorare, ritornare a questi argomenti e verificare ogni giorno che questa realtà, e quando la vediamo capiamo perché non eriamo felici, perché cerchiamo la felicità a un posto dove non è. Andiamo da Chiara, che abita a Roma, ci chiama all'800 24 0024. Chiara, buongiorno. Buongiorno a voi. Io l'ho fatta già abitare a Roma, magari a Roma di passaggio, a casa di un'amica, e ci chiama, ma comunque ci chiama, no, da Roma. No, vi chiamo da Roma, da una piccola infelicità, sono a letto con la febbre, ho preso il coraggio di intervenire in una trasmissione, cosa che non ho mai fatto in vita mia. Perché l'argomento mi interessa tantissimo, vi ringrazio, è un argomento molto complesso, ma voglio lanciare una piccola provocazione. Sì. Tutto quello che avete detto è giustissimo, magnifico, tutto il rispetto per una persona così importante che avete studio e insomma tutto quello che avete detto, ma forse io sto imparando alla mia età che la felicità consiste anche nell'accettazione delle infelicità che noi possiamo avere nell'arco di una vita, e quindi l'accettazione del qui ed ora è anche l'accettazione di non ricercare a tutti i costi la felicità nel momento in cui si può vivere anche uno stato di inquietudine, di certo. non felicità. E poi la felicità sì. può essere anche la ricerca oltre che la curiosità, cioè il cercare sempre e quindi avere tutto sommato anche un pochino di inquietudine continua, oppure mi sembra, Chiara, che sia molto vicino al se lei legge il libro di Christian Boiron si ritroverà in molte delle cose che ci ha detto e ci ha suggerito come provocazione. Io la ringrazio molto, Monsieur Boiron. Posso intervenire su questo livello di confusione tra che cos'è la felicità e che cos'è l'infelicità? È sempre la problematica essenziale. Accettare i momenti di infelicità. Se diciamo che devo accettare il momento dove sono imprigionato delle mie condizionamenti cattivi e che devo uscire di questo condizionamento, è verissimo, non sono perfetto, donc non sarò mai felice in maniera assoluta. E la felicità è sempre un cammino permanente, siamo sempre più felici man mano progrediamo nella vita. Ma se significhiamo che dobbiamo accettare i momenti di infelicità come i momenti di non piacere, i momenti di febbre, i momenti di sofferenza psichica perché i nostri bambini hanno un problema più o meno importante, eccetera, eccetera, è vero che la chiave della felicità è l'accettazione del mondo tale che è, che se solo si accettiamo il mondo come è, la nostra realtà personale come è, che posso cambiarla e che posso cambiare il mondo. È un paradosso. Posso partecipare al cambiamento del mondo se l'accetto come è, e posso essere felice se mi accetto come sono tutta la realtà complessa e completa. Anche infelice perché non siamo mai perfetti. Io vorrei adesso farvi entrare nel metodo di Monsieur Boiron. Il metodo propone diversi passaggi, tutti dentro alla cornice concettuale della ginnastica della felicità. Abbiamo ancora un minuto di tempo, quindi vi do il primo passaggio è: definite, lei scrive così nel suo libro, la vostra filosofia. Cosa intende dirci con questo suggerimento? Cosa vuol dire, Monsieur Boiron, definire la propria filosofia? Generalmente viviamo la nostra vita come se era la nostra vita, ma non è la nostra propria vita. Viviamo la nostra vita con un programma che non è il nostro, e dobbiamo fare un sforzo importante per rimettere nel nostro computer personale della nostra personalità profonda il nostro programma, e questo programma dobbiamo cercarlo dentro il nostro cervello, la nostra intelligenza, e di rimettere del nostro cervello tutte le cose che pensiamo veramente profondamente a proposito di tutti gli aspetti della vita. E questo è un tipo di scrittura e di una filosofia personale. È questo che ci rende felice. Adesso non so se vi renda più o meno felici, ma dobbiamo farlo. A proposito, vuol dire anche accettare. Noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. A volte il traffico ci fa arrabbiare, ma andiamo a sentire come va. Essere e benessere. Allora, Monsieur Boiron, nella seconda parte del libro, quello che ci serve molto, proprio quello che dove dalla teoria, capito quello, ecco come si fa, si passa alla pratica. Lei ci invita a cambiare la nostra vita in 6 mesi, la nostra testa soprattutto, perché parte tutto da lì. Sì. Allora abbiamo già definito quello che possiamo descrivere come la nostra filosofia. Poi Poi, un pochino più in là, lei propone meditate un quarto d'ora al giorno. Ormai la meditazione diventa, molti la suggeriscono e ne studiano anche i vantaggi proprio anche a livello della nostra salute. Certo che sembra strano, no? Non riusciamo a immaginare come una persona che è attiva come lei, sempre in giro, con tutto quello che ha da fare, ma come farà Monsieur Boiron a meditare? Perché fino a quando non si prova, tanti di noi pensano sarà una cosa difficilissima, ci riuscirà magari Mathieu Ricard, ma io che non so, sono una persona assolutamente normale, come faccio ad imparare la meditazione giusta e poi come faccio a ritagliarmi un quarto d'ora al giorno ogni giorno? È fondamentale. Le due primi esercizi di questa felicità sono, primo, fa uscire dalla nostra cervello le basi filosofiche, ma l'altro, e questo è un lavoro veramente, l'altro è la meditazione che aiutaci a essere nel nostro veramente, nel nostro vero e proprio programma di vita. E perché siamo sotto l'influenza permanente della società che ci incita a uscire di sé, a uscire di noi, e dobbiamo sistematicamente fare un sforzo importante per essere sempre dentro di noi. E questo è la meditazione. Meditazione non necessita di fare grandi cose, ci sono libri a proposito della meditazione, ma possiamo solo fare un po' di pausa e lasciare la nostra intelligenza, che è la chiave della nostra personalità, del nostro essere profondo, e anche la chiave della nostra felicità e la chiave del vivere veramente la nostra vita, lasciare la nostra intelligenza personale lavorare e prendere e conservare il potere. Lavorare per noi. Allora, adesso vi faccio ascoltare una cosa che mi ha molto incuriosito e sono certa che piacerà anche a voi. La meditazione lampo, sì. come la descrive Christian Boiron. Andiamo. Claudia è infelice perché non esprime tutta la sua potenzialità creativa. Lei, del resto, non sa neppure di averla, visto che spessissimo si è sentita ripetere... Abbiamo fatto un piccolo errore di file. State lì, meditazione lampo. Nel corso della giornata, quando ci si sente minacciati dal potere delle emozioni, è possibile ricorrere anche a una meditazione lampo. Basta qualche secondo per ritrovare il contatto con la neocorteccia. Seduti, in piedi o sdraiati, anzitutto chiudete gli occhi. Rilassate la muscolatura, tutta, passando in rassegna un componente dopo l'altro. Prestate attenzione alla respirazione e liberatevi di tutto ciò che può intralciarla. Tentate di percepire distintamente tutte le sensazioni fisiche e psichiche senza giudicarle. Odori, sapori, rumori, sensazioni di caldo o freddo, di benessere o di disagio, desideri diversi e di varia natura, ma anche le diverse emozioni che si possono provare. Immaginate che anche il cervello sia un muscolo da rilassare. Lasciate che i pensieri vadano e vengano, senza trattenerne alcuno. Ed ecco, ci siamo. Una meditazione, della meditazione suggerita da Monsieur Boiron nel suo libro Siamo tutti fatti per essere felici, letta da Alessandra De Luca, che ha questa voce che... Magnifica, vero? Magnifica. Mi ha fatto molto piacere. Allora, io voglio leggervi però, Silvia, a proposito, mi manda un messaggio, una frase di Epiteto: non cercare di fare in modo che ciò che avviene avvenga come tu lo desideri. Non è finita. Ma desidera ciò che avviene come avviene e sarai felice. Siamo... Gli anziani, alcuni avevano, come Epiteto, Aristotele, eccetera, avevano intuito un certo numero di cose a proposito della cosa che oggi possiamo sapere attraverso le conoscenze della, a proposito specialmente della, del cervello, del funzionamento del cervello, che non avevamo prima. E prima pensavamo che il piacere, o piaceri e la felicità facevano parte della tutto. Stessa realtà, infatti no. E dunque ha dato qualche cosa che sono interessanti, ma non è giusto però, a 100%. No, però già Epitteto era sulla strada buona. E noi andiamo avanti e arriviamo a Venezia perché c'è Monica. Buongiorno Monica, benvenuta. Buongiorno. Grazie, complimenti per la trasmissione. Grazie a lei. Niente, io volevo dire la mia felicità, io l'ho raggiunta con la semplicità. Anche il gioire di una bellissima giornata di sole, una passeggiata, una cena in famiglia, cose semplici. E soprattutto l'ottimismo e il sorriso. Grazie. Io vivo praticamente col sorriso. Grazie Monica, grazie per essere intervenuta. Raffaele della provincia di Foggia, buongiorno. Buongiorno. È molto difficile sintetizzarlo in poche parole, ma io la felicità l'ho scoperta 30 anni fa, quasi 40 adesso, con il metodo scautistico, che sì. dice la tua felicità sta in quella degli altri. E questo ti tira fuori dall'egoismo. Io la mattina esco e mi preoccupo di quelli che incontro. Volevo fare un esempio sul tuo traffico. Ci nervosiamo al semaforo per 5 secondi, però perdiamo un'ora per aiutare qualcuno e siamo più felici, abbiamo perso un'ora, perché abbiamo reso felici gli altri. Io ho dedicato la mia vita al servizio verso gli altri e sono sempre felice. Quando non ho nulla da fare, quando non sento il richiamo degli altri, ritorno infelice. Quindi D.P. diceva, D.P. Baden-Powell, il fondatore dello scautismo, cerca la felicità in quella degli altri e questo per me funziona. Grazie Raffaele, che ci chiama dalla provincia di Foggia. Vorrei andare ad un altro consiglio, Monsieur Buaron. Siate artisti. Su questo immagino che molte persone siano particolarmente resistenti. Artisti, beh, come si fa a dire? Molti non vivono, non sentono, ad esempio, una particolare inclinazione per tutto ciò che è espressivo. Ma io, Monsieur Buaron, penso che quando lei parla di siate artisti parla in fondo di qualche cosa di più ampio, non ci dice prendete il pennello e diventate anche. Picasso ma fate anche altro. Sì. In che modo possiamo coltivare questo artista che è in noi, che dobbiamo scoprire, che ci può aiutare a essere felici, a una felicità che abbiamo detto non legata al piacere ma a una felicità che parte dalla consapevolezza del sé. Sì, è legato al meccanismo di azione della felicità e della vita. Come la felicità significa di essere se stesso, questa è che tutta la società ci incita a non essere se stesso, devo prima di tutto accettare di lottare contro le pressioni della società, del nostro entourage, ma anche del coraggio di creare la nostra vita, perché noi siamo fatti per creare. La specificità dell'uomo è anche la creazione, è un istinto dell'intelligenza, la creazione. E dunque dal momento che comincio a creare, a pingere per esempio, mi messo sul cammino della creazione della mia vita. E dunque è una ginnastica, è progressivamente mettiamo sempre più di creazione nella nostra vita e a questo momento significa che accettiamo sempre di più la nostra capacità a disegnare veramente la nostra vita. È un percorso, la ginnastica per e della felicità. Io vi ricordo questo libro che davvero è illuminante perché ci fa scardinare dai nostri preconcetti che ci tengono ancorati alla ricerca di qualcosa che è altro. Siamo tutti fatti per essere felici e quindi io vi saluto, ringrazio Monsieur Buaron per essere stato grazie con mille. Noi qua in studio, aver dedicato un'ora del suo tempo. Siamo stati bene, vero? È un piacere per me. È un piacere, non è felicità, ma è un piacere. Allora io vi saluto, vi do appuntamento a domani dopo il GR delle 11. Grazie di essere stati con noi e buona giornata. Essere e benessere.